Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sergenti del Traghettatore, buongiorno. Cominciamo con un corso internazionale un po' singolare. È dedicato ai dissidenti digitali. Possono creare cambiamento? Avviene nell'ex carcere delle Murate a Firenze, lunedì e martedì. Organizza il Robert Kennedy Center for Justice and Human Rights e apre le porte agli attivisti digitali. Lancia il progetto Smart Dissidents e premia il miglior blogger del 2011. Con Francesco Morace, presidente del Future Council Lab. Buongiorno Francesco Morace. Buongiorno a voi. Parliamo di carta dei valori dello sport. Ne parliamo raramente, ma bisogna sottolineare che lo sport, con la responsabilità sociale, con i percorsi del no profit, è molto collegato. Avete fatto una ricerca, presidente, per CONI con l'aiuto di Procter & Gamble. Sì, diciamo che l'idea era proprio lavorare sul talento, che è la parola chiave dell'Italia dei prossimi anni. E su questo abbiamo individuato lo sport come il serbatoio di potenziali valori sani su cui anche le giovani generazioni possono continuare ad allinearsi. E la cosa particolarmente originale di questa ricerca è stata partire dalle mamme dei campioni olimpici italiani, quindi una cinquantina di mamme, tra l'altro si sono ritrovate insieme a noi il 21 aprile con il sostegno di Procter & Gamble e di CONI per stilare e poi firmare una vera e propria carta dei valori dello sport, dove i valori della passione, del divertimento, ma anche della costanza, della disciplina, ma anche ad esempio del miglioramento progressivo, no? Che può essere misurato. Si parla tanto di meritocrazia, no? In questi mesi, la cosa meravigliosa dello sport è che i meriti possono essere misurati. Chiudiamo con una battuta, se ti piace, che dai valori dello sport ai valori di civiltà, insomma. Assolutamente, è più facile probabilmente in Italia proporre valori civili e di impegno partendo da un mondo come quello sportivo, che da noi per tanti è una passione. Bene, grazie al presidente di Future Council Lab, Francesco Morace. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Lamezia Terme, dal 20 giugno per 4 giorni, più di 100 ospiti tra autori, giornalisti, uomini dello Stato, artisti, studenti, dal vivo, mostre ogni sera e spettacoli. Il titolo questa volta è Festival dei libri sulle mafie, trame, incontri speciali per valorizzare e sottolineare il coraggio delle donne che si ribellano al clan, ai sacerdoti o agli imprenditori che hanno deciso di dedicare la propria vita alla lotta alla mafia. E adesso con noi Gianni Sgarbi, marketing manager di Icarus Net. Buongiorno Gianni Sgarbi. Ciao. Chiediamo di raccontare brevemente un'esperienza che ahimè ti riguarda anche direttamente in quanto residente nelle zone terremotate dell'Emilia Romagna, ma in quanto manager di Icarus Net tu ci puoi raccontare un'esperienza bellissima, tragicamente bella, che è quanto il satellite, in questo caso il vostro satellite Eutelsat, è riuscito a intercettare un bisogno primario che non si poteva soddisfare più a causa del terremoto. Cosa può fare il satellite? Cosa ha fatto in questo caso? In questo caso ha svolto una funzione importantissima, cioè subito dopo il terremoto, appena ci siamo ripresi un po', io ho visto che c'erano un sacco di ragazzi che devono affrontare la maturità, per cui avevano bisogno, non avevano più libri, e per cui avevano bisogno di un collegamento internet. Il gioco forte è stato quello: attraverso il CASAT di Eutelsat ho chiesto l'autorizzazione, che mi è arrivata immediatamente. Avevo una parabola in casa, l'ho installata immediatamente sulla tensostruttura che avevamo approntato, ma dopo poche ore, e sono riuscito a dare un wifi con un access point, ho dato un wifi a tutti i ragazzi del quartiere in modo da poter continuare a fare ricerche, a navigare, insomma a fare le cose che si possono fare con la banda larga. Grazie, in bocca al lupo e auguri Gianni Sgarbi. Grazie a te, grazie. Ciao. Chiudiamo con i vincitori di Energy Award Studio Bernoni, che sono Loccioni Group per la produzione, di Asen per i costruttori di impianti e New Twins per l'efficienza energetica. Sono questi i premi della terza edizione, che sono stati consegnati nella sede di Bosch a Milano. Abbiamo concluso, vi ricordo di cliccare mi piace su Ferribot-Radio24, grazie in redazione ad Anita Panizza e Miriam Lucchetti, in regia a Michele Previato.